Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E di nuovo in diretta dopo il GR di Radio Popolare parliamo del Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto. È un last minute, quindi è per la giornata di domani alle ore 21. Abbiamo la possibilità di una proposta che già a Bologna con il focus lavoro per ERT Emilia Romagna Teatri ha avuto diffusione grazie al Breakfast Club e non solo ovviamente, però grande attenzione per questo motivo di conversazione che ho tenuto con la regista dello spettacolo Le Serve. In ambito di lavoro, il focus lavoro di ERT ha dato diversi spaccati e diverse accezioni di quello che sta succedendo. Riprendere il lavoro di Jean Genet è un lavoro scritto nel 1946, un lavoro che è una denuncia a un capitale che oltre a essere prepotente ha anche purtroppo un raggiro per emulazione fino a portare all'esasperazione. È un fatto di cronaca nera. Le Serve, interpretato da Eva Robbins, Matilde Vigna e Beatrice Vicchione. Comunque, il fatto di cronaca nera, due sorelle di nome Christine e Lea Papin, di 28 e 21 anni, a servizio da almeno 4 anni presso una famiglia borghese composta da coniugi di mezza età e della loro figlia, in seguito ad un rimprovero per un banale incidente massacrarono madre e figlia. Qui la disperazione, la ferocia inaudita che queste due sorelle hanno portato al danno della diciamo protagonista, co-protagonista, sarà interpretata da Eva Robbins nelle Serve con la regia di Veronica Cruciani, che sarà al Teatro Comunale di San Giovanni in Persiceto alle ore 21 per la giornata di domani. La trama è la rilettura di Jean Genet, che ha portato la rielaborazione dell'autore stesso nel 1954. Il lavoro parla appunto di questa situazione che è contraddittoria e nello stesso tempo preoccupante, di un incontro scontro dopo questo banale incidente ad avere motivo di emulazione per questa ricchissima signora e allo stesso tempo un feroce odio. Proveranno a metterla in cattiva luce con delle lettere anonime scritte dall'amante, dopodiché l'amante stesso ne smaschera questa provocazione e a questo punto la violenza si scatena in maniera, come ho detto, con una ferocia inaudita. Insomma, per quanto riguarda Le Serve, di cui abbiamo parlato qualche puntata fa al Breakfast Club, domani sarà alle ore 21 al Teatro Comunale a San Giovanni in Persiceto. Sentiamo una frazione di conversazione, di presentazione con la regista Veronica Cruciani e poi avremo il quiz per la possibilità di essere a teatro a San Giovanni domani alle ore 21, un ingresso più uno. Il motivo per cui ho scelto questo testo è perché mi sta dando ancora la possibilità di affrontare tanti temi che mi stanno particolarmente a cuore, e sicuramente uno di questi è il teatro. Quindi Genet già nel testo inserisce tutta una serie di cambi di ruolo, di travestimenti, quindi come dire, il tema del teatro è già insito all'interno del testo. Però nel nostro spettacolo questo tema è maggiormente sottolineato, evidenziato da una scelta, che è un ulteriore piano che è inserito all'interno dello spettacolo, dove Beatrice Vecchione e Matilde Vigna all'interno nell'arco, diciamo, dello spettacolo interrompono proprio in dei momenti lo spettacolo, mostrando delle frasi, degli appunti di regia molto brevi, un po' simili appunto a quelle piccole frasi che uno appunta quando legge un libro sulla pagina, che sono: proteggimi da ciò che voglio, il deserto del reale e saremo libere, che sono tre frasi che scandiscono tre momenti del lavoro, che sono dei nodi comunque drammaturgici. Il primo: proteggimi da ciò che voglio, perché queste due serve appunto desiderano essere qualcosa che non sono e qualcosa che non saranno mai. Questo le porterà comunque alla morte o comunque alla tragedia, una di loro si suiciderà e l'altra comunque sarà disperata per questo. Però all'interno appunto del teatro, dell'irrealtà e della fantasia, trovano la loro vitalità, cioè nel gioco dei ruoli, del teatro, della commedia, riescono a essere vive e vitali. Nel deserto del reale, perché quando ripiombano all'interno della loro vita invece trovano un deserto, quindi non c'è niente, c'è il nulla, e saremo liberi è l'ultimo atto dello spettacolo, che è una frase che dice Claire prima di suicidarsi, che dice alla sorella: tu mi porterai dentro di te, saremo belle, saremo liberi e saremo felici. Un po' come per dire, dal mio punto di vista, che in questo mondo in cui loro vivono, un mondo in cui i padroni non si possono più uccidere, l'unica alternativa è la morte. Quindi questo è un po' il pensiero che passa. Quindi un tema è sicuramente il teatro. Genet, scrittore, drammaturgo, beh, certo per alcune modalità di scrittura, di espressione, se vogliamo anche discutibile, ma dal talento certo, un immenso talento, Le due sorelle, dal caso di cronaca, dal nome vengono trasformate: Claire Solange, cameriere, modello al servizio di una ricca signora, e ogni volta che lei ovviamente esce di casa, le due donne si scambiano la parte fra loro, recitano a turno il ruolo della padrona e della serva, chi interpreta la serva non mette in scena se stessa ma l'altra sorella, insomma è un rituale quotidiano per emulazione, ammirazione, amata, ammirata, insieme invidiata per questa ricchezza e odiata. Le sorelle indossano addirittura i gioielli, arrivano ad avere degli atteggiamenti esasperanti, il loro gioco diventa sempre più pericoloso, finché un giorno denunciano l'amante di Madame con delle lettere anonime, venendo a sapere che sarà scarcerato, come ho detto, per mancanza di prove, quindi verranno smentite e questo avrà motivo di escalation di violenza, perché temono che il loro tradimento possa essere scoperto. Ed ecco che il piano della finzione è quello della realtà. Nella loro mente già scossa si confondono, arriva l'omicidio, si materializza, cercano di farla bere alla signora, falliscono nell'intento e insomma dopo ci sarà poi un attacco molto cruento, come ho detto, e feroce. Ma per quanto riguarda la concretezza del teatro, come già ha parlato Veronica Cruciani per darne una anticipazione di quello che sarà domani a San Giovanni in Persiceto, disco martedì 26 marzo 2024 alle ore 21, io resto in ambito letterario con un altro grandissimo, un Don Chisciotte che per me è un idolo assoluto, e parliamo anche di servitù. Come si chiamava il servitore di Don Chisciotte? Domanda facile se vogliamo, e beh, come ben sapete ho piacere di portarvi a teatro, quindi il nome del servitore di Don Chisciotte per avere un ingresso più uno a teatro, Le Serve a San Giovanni in Persiceto, domani alle ore 21. Quanto fedele alleato, lui è un contadino che viene coinvolto nelle avventure donchisciottesche, l'ho chiamato servitore ma se vogliamo è più un suo alleato, anche se Don Chisciotte poi promette che se lui sarà fedele in tutte le cose che vengono proposte gli verrà regalato e donato un castello su un'isola, ecco, beh, il nome di questo personaggio. l'ingresso per domani a San Giovanni in Persiceto alle ore 21, le serve Jean Janet, la regia Veronica Cruciani, in scena Eva Robbins, Matilde Vigna e Beatrice Vecchione. 333-180-9494, aspetto le vostre risposte. Ciò vale anche per la durata dei magazine a breve, questo l'ho dato come last minute per il teatro, ribadisco l'alleato servitore del Don Chisciotte che ha portato motivo e un merito per affiancare questo originale condottiero, se sarà fedele avrà un castello, un'isola, insomma verranno millantati clamorosi premi. Come si chiamava questo servitore? Uno più uno per andare al teatro comunale a San Giovanni in Persiceto. Le serve domani in scena alle ore 21. Aspetto le vostre risposte. Come ho detto, tutto ciò sarà valido anche come risposta all'interno dei magazine che saranno a breve. Un po' di musica, pubblicità, poi si ritorna con la rassegna stampa culturale dei 103.1. A tra poco. Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brother? Can you see the new? Can you see it, my sister? Can you see the new? Can you see it, my brothers? Can you see the new? See the new? E brava Laura, ha risposto esattamente. Poi ti dirò, Laura, l'hai scritto anche correttamente, per cui meritatissimo il tuo ingresso doppio a teatro per domani alle ore 21. Ho visto lo spettacolo, è meraviglioso, eh? Quindi bene, sono molto felice di questo. Grazie Laura, la risposta è Sancho Panza. Ricordo un po' il mio stato fisico, questo nome. E adesso dobbiamo metterci un pochettino a posto, lo sapete, insomma, su. 8.04 minuti, ufficialmente partono i magazine. Il primo premio è stato assegnato a Laura per lo spettacolo di domani nel nostro Last Minute. Ricordo che avremo un'altra possibilità al cinema con Pop-Up, la rassegna seguita anche da Radio Città Fujiko, sempre domani alle ore 21 per una proiezione di cui parleremo dopo il primo stacco pubblicitario. Intanto un po' di magazine. Tra Tra l'altro lo spettacolo ha delle vaghe attinenze con un articolo uscito sul Manifesto, molto vaghe, però insomma ne parleremo. Allora, la lettura apre così invece, ci sono collegamenti con quello che denunciamo ogni momento e non solo nella lettura delle prime pagine, è il pessimismo, è un lusso che i poveri non possono permettersi. È un'interessante intervista di portato da Anna Chiara Sacchi sulla lettura del Corriere della Sera. È strano come il Corriere della Sera, come tanti altri magazine, poi abbiano delle visioni un po' che escono dall'aspetto della pubblicazione editoriale quotidiana. E comunque la lettura del Corriere della Sera lo trovate in edicola per tutta la settimana. Rileggo: il pessimismo è un lusso che i poveri non possono permettersi. Ditelo a un operaio in cassa integrazione di angosciarsi perché la sua auto scassata del 1999 inquina troppo e contribuisce al disastro ambientale. Ho una mamma single e precaria distruggersi davanti agli scaffali del supermercato perché le banane non sono biologiche, o di preoccuparsi più di tutto di quella situazione mondiale che sta andando in declino, intanto che le scarpe del figlio che cresce troppo in fretta bisogna cambiarle, o di riflettere sugli scenari internazionali anziché pensare a come tirare avanti in una periferia urbana degradata, riscaldamento terrestre, conflitti molto vicini ai europei, mancanza di risorse per tutti. Sono problemi reali, drammatici, destinati a cambiare le nostre società e quello che pensavamo sarebbe stato il nostro futuro. Ma troppi intellettuali, dice Miguel Benassayag, nato a Buenos Aires il 4 giugno del 53, dice: troppi intellettuali scelgono in modo narcisista di dire che tutto è finito. Lui, filosofo e psicanalista, nato a Buenos Aires, ex guerrigliero guevarista dell'esercito rivoluzionario del popolo, nella sua biografia, insomma, ha portato anche questa osservazione. Da più di 30 anni è impegnato nei quartieri difficili di Parigi, dove ha preso residenza e ha perso la pazienza, come dice l'articolo sulla lettura. In effetti diventa il caso di quello che ho sempre denunciato quando vedo le borraccine, no? Che sacrosante, ci mancherebbe, io sono contro l'abuso della plastica, è ovvio, è naturale, ma allo stesso modo per me è dall'alto che bisogna cominciare a intervenire. Vedere un operaio in luglio in autostrada sotto il catrame, sudato fradicio, sporco di bitume, che prende la bottiglietta di plastica e dà un sorso d'acqua sotto la canicola e noi, ah, guarda, beve nella bottiglietta di plastica, che incivile. Beh, intanto allora facciamo in modo che non ci sia più nel supermercato la bottiglietta di plastica, facciamo in modo che abbia la possibilità di portare in maniera per il suo ristoro più legato a un'attenzione per l'ambiente, perché è ovvio che se quello che arriva dall'alto invece è un invito ad inquinare, a portarci non l'attenzione ma per così dire diventare complici di quello che sta succedendo seppur in miserrima parte, è ovvio, perché come dico sempre è dall'alto, lo diceva anche il Folagra, ricordate il compagno di Fantozzi, è a monte che dobbiamo colpire, già, ma l'abbiamo dimenticate queste cose. Perché i poveri inquinano, i poveri sono in condizioni da questa disparità di ricchezza gravissima, di cui ne porta anche la lettura più avanti e ne parleremo, hai capito? Una poca speranza per quanto riguarda dei percorsi dove i giovani, basta voltare pagina, dove i giovani, il consumismo ha vinto, noi volevamo un'alternativa al sistema, oggi invece i giovani vogliono farne parte e qui mi rifaccio allo spettacolo Le Serve, anche se oramai quel modello non può contenere più nessuno. quello che abbiamo presentato con le serve si rifà a queste due righe. Oggi invece i giovani vogliono farne parte, anche se ormai quel modello non può contenere più nessuno. Allora, nel procedere a questa conversazione senza certezze, senza protezione, senza divertirsi, senza immaginare un futuro aperto, cosa può fare l'umanità? In questo momento storico noi non possiamo pretendere sicurezza sociale, ambientale, alimentare. Se la pretendiamo, allora cadiamo nelle mani del tiranno che a tutto ciò promette in cambio libertà. Libertà di cosa? Di essere sfruttati. Le minacce dell'oggi sono reali, ma cadere nella trappola della certezza che tutto andrà peggio è letale. Qualcuno chiederà: questo atteggiamento cambia il futuro? Non lo sappiamo, ma smettiamola di terrorizzare i giovani costringendoli ad acquisire competenze utili, ma utili a cosa? All'esoscheletro della macroeconomia. E intanto dimentichiamo arte e poesia, parole sante, eh? The light is now shining through when I see a new view. When now I'm no longer cute without. Filosofo, scrittore, questo che è stato intervistato e riportato nel dibattito delle idee, Miguel Benassayag, nato a Buenos Aires, riporta concetti molto, molto attuali e anche molto importanti. I conflitti pregiudicano il futuro, sono problemi reali, drammatici, sconvolgenti, ma sono problemi che i precari delle metropoli del mondo, gli immigrati delle periferie, i disperati del sud, per Miguel Benassayag, filosofo e resistente, psicoanalista e guevarista, argentino rifugiato a Parigi durante la dittatura, non hanno la forza di affrontare. Allora dico basta con i profeti dell'Apocalisse. Questo è l'articolo che ha dato via la lettura. Seguirà anche un reportage a proposito di disparità nel mondo. Intanto noi ascoltiamo un po' di musica, dire tempo jazz, un po' di jazz italiano, anni 70. Dire tempo jazz è un lavoro che riporta nomi importanti, Santucci Scoppa, Guido Manusardi, Tito Fontana. Voi direte: ma chi sono questi? Questi sono stati jazzisti negli anni 70 in Italia che hanno portato grande musica. A tra poco. Buongiorno anche al nostro direttore Alessandro Canella, che scrive: mi dispiace, ma non è vero che le risorse non bastano per tutti. Se ci fosse un'equa distribuzione staremmo bene tutti, invece c'è chi ha troppo e chi nulla. Il ricco che viaggia in jet è più responsabile del povero che ha un'auto inquinante. Ah certo, quello sicuro, però guarda, te ne do evidenza, oltre a quello che ho scritto, che ho letto nell'articolo precedente, anche per quello che è il dibattito delle idee capitali e capitalisti, perché aumenta la disuguaglianza sia nei paesi più avanzati sia a livello globale. È in arrivo il primo triliardario. La seconda metà del XX secolo registrò due importanti sviluppi sul fronte dell'uguaglianza. Il primo fu la grande redistribuzione, secondo la definizione dell'economista francese Piketty, all'interno dei paesi sviluppati. Alta crescita, istruzione, il welfare state promossero più benessere e più mobilità, riducendo le distanze tra le classi sociali. Ecco, tutto questo adesso sta andando completamente a rovescio, e qui ho direttamente uno schema, anche se difficile da interpretare, però ci sono le istruzioni, non le distrazioni, anche se le distrazioni le abbiamo a come per leggerlo. I primi 10 paesi per numero di miliardari: Stati Uniti 735 miliardari, dopodiché troviamo in India 169 miliardari. L'Italia non è messa prima, seconda, terza, quarta, quinta, settima. Italia 64 miliardari, e rivela tutto ciò dal 2023. Scusate, le 10 persone più ricche del mondo. Allora, Bernard Arnault, 211 miliardi di dollari statunitense. Elon Musk, Stati Uniti, 180. Bezos, 114. Dopodiché abbiamo veramente a fondo pagina un poveraccio, Steve Ballmer dagli Stati Uniti, 80,7. Bill Gates è a metà classifica in questi playoff con 104. L'articolo, e questo filosofo argentino, non diceva chi inquina, chi non inquina, com'è la situazione, diceva che purtroppo questa mancanza culturale, questa gravità di ricatto a cui si sta sottoponendo una classe sempre più subalterna, inevitabilmente presa sotto strozzo, e sono tantissimi, è chiaro che non hanno quella attenzione, ne sono costretti. E a proposito di queste filosofie sociali, cambio magazine e vado sulla Domenica del Sole 24 Ore, dove troveremo un articolo per un saggio riportato invece da Simone Veil, e ne parleremo tra poco. Questi sono i Children of the Light, un buon ascolto. Danilo Perez, John Patitucci, Brian Blade è stata una formazione che assieme a Wayne Shorter in uno dei suoi ultimi lavori, Without a Net, senza rete, ha dato questo bellissimo motivo di narrazione e scrittura in jazz. Con la scomparsa di Wayne Shorter, il progetto con questo piano trio ha continuato ad esistere. Children of the Light, questo è il loro primo lavoro a omonimo, ci siamo. In ambito di saggistica, saggio che volevo mettere in palio addirittura, ma di oggi di premi dai ne abbiamo, no? Allora, spiritualità, Simone Weil, come arde la filosofia della rinuncia, in attesa di Dio, il rifiuto dell'imitazione sociale, imitazione sociale, è questione di vita o di morte, una raccolta di scritti su Cristo, la Chiesa, gli studi, la forza, il carcere, la giustizia. Simone Weil è questa intellettuale, muore ad Ashford nel 1943, giovanissima, nata a Parigi nel 1909, filosofa, scrittrice, mistica francese, cristiana fuori dalla Chiesa e marxista eterodossa, rinunciò a insegnare perché? Perché voleva lavorare in fabbrica. Interessanti alcuni spunti, un credito immaginario che bisogna rinunciare, una sottrazione e diminuzione che è il grande fondamentale gesto artistico di ogni esistenza e riecheggia. L'atto originario di Dio stesso, la creazione da parte di Dio, non è un atto di espansione di sé, ma un ritrarsi, un atto di rinuncia al pari di Dio che è al di fuori dell'universo e nel contempo ne costituisce realmente il centro. Ogni uomo immagina di essere al centro del mondo. Queste sono alcune delle riflessioni. Al tempo stesso riteneva che cambiare religione, come per uno scrittore cambiare lingua, per lo più sconsigliabile. Bisogna sprofondare nel linguaggio del proprio inconscio, contemplare l'alfabeto di base del sacro per la capacità di attenzione, amore che suscita in noi. Filosofa di critica marxista eterodossa, come ho detto, ha rinunciato a un lavoro, per così dire, di mezze maniche. Oddio, adesso non sto svalutando certamente il lavoro che porta un percorso legato a una burocrazia istituzionale, però fece tutto questo per stare vicino a operai e operaie e andò a lavorare in fabbrica. Tesa di Dio è il lavoro edito da Adelphi ed è in uscita o è uscito già in questi giorni. Volevo portarlo come saggio anche per questa settimana, chissà, magari per la prossima settimana nei magazine, magari abbiamo già il teatro, il cinema, anzi il cinema a breve, il quiz, eh? voce di Jalisha Anderson per il progetto Block 16, disco Morning Sun, il sole del mattino, Find an Oasis, cercando un'oasi. Bellissima label che purtroppo non esiste più, ma è stata una label tra elettronica e soul molto bella. Phase Action. Allora, delle attinenze ci sono con il quiz, a breve, come vi ho detto, per andare al cinema domani, Cinema Jolly, alle ore 21, 1 più 1 è l'ingresso. Però pagina 5 invece è un libro, si parla del genere Giappone, quei rivoluzionari personaggi queer, mappa sulla cultura pop di manga e anime a cura di Giorgia Sallusti. Nei saggi emergono figure femminili combattenti, non più passive e obbedienti, ma tanti altri messaggi secondo me sono arrivati da questo cambiamento in ambito di animazione. Partono con questi robot, no, che devono salvare il pianeta e si rifanno sul mito del pianeta Mu, continente scomparso, e hanno tanto attinto anche dai nostri classici. Beh, non serve citare il più ironico Pollon, molto ovviamente così orientato su un aspetto di comicità, ma tanti nemici dei grandi robot avevano dei riferimenti ai cattivi nel mito, ai mostri del mito, nella Medusa e in tanti altri. Non conosco bene questo personaggio perché ero già grande, poi perché non era esattamente nel saggio che apre il libro dedicato a Sailor Moon. Andrea Pancini sottolinea come nel mondo rappresentato nel fumetto e nella serie animata uscita nei primi anni 90, quindi le regole e i codici che impongono l'eterosessualità maschile come unico modello di riferimento viene decostruito sin dal primo volume dell'opera curato da Naoki Takeuchi in Sailor Moon. Uno dei primi lavori di una certa portata culturale a fare ciò, sono i personaggi maschili a dover essere difesi e non le donne. Inoltre è proprio nel manga che apparono dei personaggi queer più famosi del mondo delle anime e dei manga, Sailor Uranus, e qui con Uranus appunto abbiamo anche dei riferimenti molto legati alla classicità e non solo. Haruka, nome, questo è il suo nome prima della trasformazione, pare iniziare mostrando un'espressione di genere maschile, quando però combatte come Sailor Uranus assume un aspetto e un comportamento femminile, viene riconosciuto dagli altri come ragazza. Beh, a questo io, anche se già più grande e non sono riuscito a evitare, perché per me intelligentissimo. Tra l'altro è dalla stessa creatrice del mio cartone preferito, si dice manga, ok, va bene, manga, tutto quel che volete, aggiungo anche graphic novel, non lo so, comunque per me resta un cartone e non ne perdevo uno. Beh, si tratta di Lamù, e la stessa creatrice di Lamù è stata anche protagonista per quanto riguarda Ranma Mezzo, questo personaggio che a secondo di acqua calda o acqua fredda diventava ragazzo o ragazza. Ecco, questo è stato uno dei più evidenti casi di queer nella rivoluzione all'interno delle anime manga. Lamù ha portato un'altra rivoluzione. Eurusei Yatsura, questa protagonista per quanto riguarda l'idea del manga Lamù, per me è il più bello in assoluto. Beh, Lamù è questa ragazza dallo spazio, energica, forte, carismatica, si innamora di Ataru Moroboshi, più impacciato, ma chi di noi non ha mai desiderato una compagna di banco come Lamù? Lamù è questa ragazza dagli occhioni, dal sorriso stupendo, con questo bikini panterato, anzi tigrato per meglio dire, con le sue formine, con queste braccia affusolate, con questa bellezza e questo aspetto accattivante, anche molto irascibile, ma ci vuole. Per me comunque Lamù è numero uno tutti i tempi. Non era certo passiva e obbediente Lamù, anzi, intanto era molto in conflitto con Akane, la fidanzata terrestre ufficiale di Ataru Moroboshi. Però Ataru riuscirà in una competizione per cui dovrà, per le leggi del pianeta di provenienza di Lamù, dovrà sposare assolutamente questa affascinante extraterrestre. In cosa consisteva la gara? Consisteva nel batterla in una corsa e nello stesso tempo riuscire a toccare quelle due piccole protuberanze che aveva sul capo, queste piccole corna. Beh, lui come fa? Lui si inventa una specie di balestra con una ventosa. Con questa ventosa toglie il reggiseno alla Mu. Potete immaginare, per dei 14 anni, potete immaginare. Quindi, e immediatamente lei si copre, giustamente, quindi abbandona la protezione a queste due cornina e Ataru la afferra. Beh, bello, tutto a posto, finalmente avrà vinto questa gara. Lui voleva vincere, è che deve sposarla dopo. Si ricorda un altro, io ero innamoratissimo della cattiva di Yattaman, sì, il maiale porta fortuna, Nando Martellotti con le telecronache, le ironie che c'erano, beh, capolavoro anche Yattaman. Morning sun, your eyes lights up the day. Morning sun, sun. Your smile gave the moon away. Pubblicità, dopodiché si rientra. Domani al Cinema Jolly alle ore 21 avremo una proiezione sempre dedicata all'animazione, non si parla di manga, no? Ho voluto dare così una vaga attinenza per quanto riguarda le argomentazioni nei magazine. Pubblicità, rientriamo subito con il quiz dedicato appunto a quello che sarà domani al Cinema Jolly. A tra poco! Probabilmente lo presenterò all'interno del Voltiamo Pagina, libro meraviglioso che ho letto nel weekend, l'ultimo di Percival Everett, Cancellazione. Ho trovato probabilmente anche il disco dell'anno, quindi sono usciti un po' a braccetto dopo un concerto strepitoso al Taurione, Miguel Zenon in quartetto, musica della Samercas. Questo ne parleremo comunque nei dovuti spazi. Ora è il momento del quiz. Martedì 26 marzo, ore 21, Pop-up Cinema Jolly Bologna, il mio amico Robot, anteprima del film candidato all'Oscar per il miglior film d'animazione, alla presenza anche del regista Pablo Berger. Martedì 26 marzo, ore 21, l'acclamato regista, autore del pluripremiato Bianca Nevis e del sorprendente Abracadabra, sarà a Bologna al Pop-up Cinema Jolly 4K per presentare il suo nuovo film, il mio amico Robot. Abbiamo un ingresso più uno, anche in questo caso. La domanda è molto facile, molto, molto. L'ho introdotta con i manga in precedenza, le anime, i cartoni animati giapponesi. Ecco, dai, chiamiamoli cartoni animati giapponesi. Il primo ad arrivare fu Goldrake, che aveva un altro nome, ok, ma non è questa la domanda, ho detto è molto facile. Mentre invece nel 1972 ci fu un primo Mazinga. Dopo nel 1974 il grande Mazinga. Allora, 1972, il creatore dello stesso robot con due particolarità diverse. Ad esempio, nel primo Mazinga, 1972, il nome era contraddistinto da una lettera dell'alfabeto. Lo so, è facile. Come si differenziava? Paolo piaceva tantissimo Gigi la Trottola, carino, sì, carino, divertente, molto. E ha risposto anche esattamente, Paolo, lo so, state rispondendo in tantissimi e vi ringrazio, vi mando un caloroso abbraccio, grazie per fare colazione con il Breakfast Club. Sì, Paolo, se darai conferma della tua presenza 1+1 domani al Cinema Jolly per la rassegna Pop-up, avrai la visione in anteprima del mio amico Robot. Grazie, Paolo. Grazie anche a Luca. Di Pino dalla Bolognina, molto sportivo, vuol partecipare ma non riesce, comunque vale assolutamente come un ringraziamento per fare colazione con il Breakfast Club. Abbiamo altre risposte esatte, ad esempio Gianluca, grazie Gianluca. E Loris Galloni, grande Loris, com'è andata a teatro poi? Oh, questo è stato un concerto da cadere a spalle indietro, eh? Al Torrione questo sabato, Miguel Zenon, Contralto, che stiamo ascoltando. È la prima volta che lo ascolto in disco, proprio tolto il cielo, fan del disco acquistato al concerto in quest'istante. Lo sto ascoltando con voi. Allora, ne ho sentito parlare di recente anch'io, comunque sono impegnato, binario e Torrione, per cui alzandomi presto la mattina, Gianluca, non ho molta possibilità per quanto riguarda le uscite. Ne ho sentito parlare tanto anch'io delle serate jazz che fanno allo Sghetto. Le consiglio, riuscirò, sai che sono in contemporanea con le mie al binario e per me non c'è nessun problema, anzi che sboccino mille fiori nel jazz e nel DJ set a Bologna, per cui ne ho sentito parlare benissimo, quindi consiglio assolutamente anche le serate allo Sghetto Club. Vado per fiducia, guarda, assolutamente, bene, bene, a Bologna arte, con il lungo 800, belle serate di jazz, bene, ottimo, il paradiso jazz. Consigliatissimo, Gianluca. Se poi al giovedì vuoi fare un salto anche al binario. Questa non è la settimana del jazz, comunque al binario, però già dal prossimo ancora ci sarò con il DJ set, con il concerto. Tra l'altro, domani ti do già appuntamento, Gianluca, in Altri Suoni, prima del Moved Groove, presenterò un disco che ho ascoltato al binario prima e dopo il mio DJ set, un disco stupendo della formazione Macria. Avrò intervista e presentazione del lavoro, molto bello anche questo disco. E intanto vado in conclusione con pagina 10. Abbiamo tratto articoli dalla lettura del Corriere della Sera, da Alias del Manifesto, da Tutto Libri della Stampa. Chiudiamo con Il Sole 24 Ore, Scienza e Filosofia. Certe notti, sempre con troppa luce e sempre di inquinamento si parla, però in questo caso è per un inquinamento dovuto alla troppa luce. Gli esseri umani hanno tagliato foreste, deviato fiumi, inquinato, ma la modifica più devastante, dice addirittura Patrizia Caraveo in questo articolo, è anche quella più immateriale, per dirlo correttamente, l'inquinamento luminoso. La luce artificiale ha effetti negativi sull'ambiente. Nelle piante stimola troppo la crescita, ma a spesa del loro ciclo vitale. Manda in tilt anche il volo degli uccelli, dell'aviofauna, completamente in tilt. Disturbano le rotte migratorie, interferiscono con la loro riproduzione, causa un gran numero di morti accidentali dovuto all'impatto con i palazzi illuminati. Poi gli insetti anche, dice, per quanto riguarda l'impollinazione delle piante. Negli esseri umani l'illuminazione artificiale disturba l'orologio biologico, che regola addirittura il ritmo cardiaco del nostro corpo, alterando il ciclo del sonno e contribuendo all'insorgere di patologie. Attenzione, ehi, spengo la luce adesso, già che ho letto questo articolo che vi consiglio. Peccato che la domenica del Sole 24 Ore non sia in edicola per tutta la settimana, perché è veramente meritorio di attenzione. I nostri magazine accidenti, non voglio mica far venire a piovere, quando uno intacca viene a piovere. Terminano qui. Con Coleman Hawkins e Desafinato. E appuntamento a domani, altri suoni, vi ho già dato un'anticipazione, poi avremo il Move to Groove, tra basket, un saluto e filosofia, un abbraccio caloroso per una buona settimana e un buon lunedì, un buon inizio settimana, ringraziandovi per l'attenzione, arriva dal vostro William Piana, che vi dà appuntamento a domani. A breve di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, dopodiché caffè e paglia con Mingo & Company, la prima colazione in diretta. Domani alle ore 7, servo vostro William Piana. Un caloroso ringraziamento e un buon ascolto con Radio Città Fujiko.